And the Oscar goes to martedì 10 novembre. Ciao a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa 87.9, sono le 20.08, inizia Note, Cose e Città. E io vi ricordo che è uscita la nuova Scarceranda, venite pure a ritirarla qui negli studi di Via dei Volsci, oppure andare sul sito www.ondarossa.info e ci sono tutte le informazioni per accaparrarsela. And the Oscar go to... Buonasera Fabio. Buonasera. Mi piacerebbe, vince l'Oscar. Questa volta mi hai aperto... mondo. Mi sentono addirittura mentre parlo? Penso di sì. Mi fa il solito... Sempre ti sento. Teatrino che dici no, non ti stanno non sentendo, ti scusa. Non ti boicotto mai. Ciao a tutte e ciao a tutti. Allora, what we do tonight? This evening. Ma anche tonight suona un po' bene. Stasera ce ne andiamo a Cleveland, o meglio torniamo a Cleveland, visto che ci siamo stati già un paio di anni fa. Nel 2018, più o meno nello stesso periodo, perché torniamo a Cleveland? Perché tre giorni fa, il 7 novembre, si è tenuta, anche se in modalità Covid, la cerimonia di induzione, come si dice. Che brutta con questa sì, cosa. La cerimonia di introduzione, diciamola che un po' suona un po' meglio, degli artisti, dei nuovi artisti nella Rock and Roll Hall of Fame. Quest'anno sono entrati sei artisti in un'unica categoria, la categoria dei performer. Poi faremo un piccolo riassunto su quali sono le categorie che vengono insomma coperte dagli ingressi. Spiegammo già all'epoca, trovate il podcast sul sito di Radio Onda Rossa. Però noi, per chi non vuole sentire il podcast, possiamo fare un minimo di riassunto. E dicevo, quest'anno sono entrati solamente i performer, e come tutti gli anni si sono scatenate polemiche perché c'è Tizio ma non c'è Caio, ma quello non è rock, quello è pop, quello solo perché è amico dell'industria musicale, quello è ammanicato, esatto. Quello non vale un euro, non vale un dollaro, insomma le polemiche ci sono state, tant'è che noi poi spiegheremo nel corso della puntata, faremo una cosa un po' diversa oggi, insomma. Comunque intanto cominciamo nel dire chi è entrato quest'anno. Per chi fosse interessato, sono entrati i Doobie Brothers, The Beach Mode, Nine Inch Nails. Con il primo italiano che entra nella Rock and Roll Fame. L'italiano adesso mi sta sfuggendo il nome, forse si chiama Alessandro, non mi ricordo più, perdonatemi, lo sto ricontrollando. Vabbè, lo possiamo dire. Alessandro Cortini. Ed è il primo italiano che entra nella Hall of Fame. Quindi dicevamo, oltre ai Nine Inch Nails c'è Notorious B.I.G., quindi entra un altro grande nome dell'hip hop nella Hall of Fame dedicata a rock and roll. Poi Whitney Houston, il nome che come si può immaginare ha scatenato più polemiche sui social. E poi Ale, c'è un sesto nome che ci piace parecchio, no? Certo, c'è un certo T-Rex, ovvero il gruppo che ruota intorno alla figura del grande Mark Bolan, che entra finalmente nel 2020 in questa Hall of Fame. Introdotto, lo posso dire introdotto o devo dire per forza indotto per essere accademico? No, ne hai facoltà, l'ho detto anch'io introdotto poi. Introdotto dal suo amico e fan Ringo Starr. Il discorso di Ringo si è concentrato su un aspetto di Bolan magari meno noto al grande pubblico che lo conosce, soprattutto per essere stato un pioniere del glam rock, per aver influenzato anche col suo look e la sua stravaganza personaggi del calibro di David Bowie, Prince, e per essere stato nei primi anni 70 comunque tra le più famose anche in termini di vendite rockstar in Inghilterra. L'aspetto, dicevo, sul quale si è concentrato Ringo riguarda il Mark Bolan poeta, perché dice Ringo Starr, la gente lo conosceva come un grande musicista, un cantautore, un chitarrista, ma era anche un poeta ed era molto orgoglioso di questo. Mi diceva sempre che era il poeta numero uno in Gran Bretagna, cioè aveva una grossa autostima. Sì, sì. E Bolan e Ringo Starr si frequentavano entrambi dai tempi dell'Indica, la famosa libreria al 6 di Mason's Yard, siamo a Londra, punto di riferimento della cultura underground, dove tra l'altro proprio in questa libreria, così apro una piccola parentesi per fare un po' di gossip, per la prima volta si conobbero John Lennon e Yoko Ono. Comunque, ritorniamo a Mark Bolan e ritorniamo al discorso di Ringo Starr. Dice: abbiamo perso Bolan troppo giovane, ma nella sua breve vita ha realizzato più di 12 album che sono lontani e in anticipo sui tempi come lui. Con l'aiuto di Tony Visconti e della sua band, i Tyrannosaurus Rex, lo stile di Mark ha dato vita a molte tendenze. Lo chiamavano glam rock, singoli come Getting On, Children of the Revolution e naturalmente Born to Boogie, ma per me è sempre stata una musica fantastica, ha aggiunto Ringo Starr, ed è per questo che le persone ascoltano oggi i T-Rex. Non c'è dubbio che appartengano alla Hall of Fame, finalmente sono molto orgoglioso di accoglierli in questo momento. E noi a Mark Bolan e ai suoi Tyrannosaurus Rex dedichiamo l'apertura della nostra puntata. La canzone che ci ascoltiamo è Gipster. You slice so good. e tutta l'energia di Mark Bolan e dei suoi Tyrannosaurus Rex per aprire questa puntata di Note a queste città. Vai Fabio. Adesso, ritmo. Come anticipavamo prima, non faremo però la puntata su chi è nella Rock and Roll Hall of Fame, tantomeno su chi è entrato quest'anno. Abbiamo messo i T-Rex perché è giusto omaggio a Bolan, e poi qua non avevamo mai passato, vero Ale? I T-Rex, forse è la prima volta che li passiamo. Non lo so, forse sì, però. Vabbè. Però facciamo un lavoro un po' diverso. Innanzitutto adesso il prossimo gruppo di cui parleremo è un gruppo che è entrato tra i nominati. Cioè il meccanismo della kermesse è abbastanza semplice. E ci sono una serie da diverse fonti, quindi immagino giornalisti musicali, etichette discografiche, radio, emittenti radiofoniche o televisive, mandano la loro lista di nominati a un piccolo gruppo di persone, e questa è la critica principale che viene rivolta all'organizzazione della Hall of Fame, e sono loro poi di fatto a decidere chi entra e chi no, e lo fanno su criteri molto molto molto soggettivi, al di là del fatto che è un evento così enorme, muove così tanti dollari che poi c'è poco di pulito, no? Noi lo usiamo, ci piace giocarci del pretesto per passare tanta bella musica, però poi è abbastanza nelle cose che il processo è inquinato da motivazioni che non sono quelle artistiche, al di sopra di noi. Quindi, fatta questa premessa, dicevamo, ci sono una serie di nominati, e detto per inciso ci sono dei gruppi, alcuni che sono stati nominati 15, no, forse no, 15 nessuno, volte 11 o 12 volte gli chic. Poi ci sono gruppi, i Kraftwerk erano tra i nominati quest'anno e non riescono a entrare, Judas Priest, e hanno avuto diverse nomine. Iron Maiden è uno dei gruppi che viene citato più spesso, perché al di là dei gusti, il fatto che un gruppo che ha segnato senza ombra di dubbio gli anni 80 non sia mai stato preso in considerazione, cioè, o meglio, e la nomina viene sempre lasciata lì su un tavolo, no, diciamo che ci stanno delle esclusioni veramente eccellenti, tipo appunto i Kraftwerk, ma anche Brian Eno, King Crimson, insomma. Noi la puntata di oggi è questa, noi oggi giochiamo a introdurre noi gli artisti che meriterebbero, che amiamo e che meriterebbero nella Hall of Fame, cioè, però dobbiamo rispettare dei criteri, un criterio che non ho detto, che va però sottolineato, è che deve essere passato almeno 25 anni dal primo disco dell'artista, della band che vuole, che deve essere introdotto nella Hall of Fame. Vi state sentendo sotto, arrivo al punto, tra i nominati di quest'anno ci sono i Soundgarden, non sono entrati, e questo non ci fa piacere. Prova a spiegare il perché Soundgarden, senza fare un discorso del livello di Ringo Starr, Ale, perdonami, però prova a spiegare il perché Soundgarden dovrebbero esserci dentro. Innanzitutto, vabbè, parliamo di un gruppo che si è formato a Seattle nel 1984. A formare il gruppo sono il cantante Chris Cornell, il chitarrista Kim Thayil. Adesso non raccontiamo tutta la storia, però ci sono vari cambi di formazione fin quando la band si delinea aggiungendo al basso Ben Shepherd e Matt Cameron alla batteria. Loro sono senza ombra di dubbio stati i capofila del grunge, e questo diciamo che dovrebbe quantomeno bastare a farli entrare dentro, però non è stato così. Sono stati i primi a firmare per una major, la AM Records. Nel 1992, insieme agli Alice in Chains, che non sono Hall of Fame, e i Pearl Jam, che invece sono stati introdotti, appaiono nel film che un po' racconta la Seattle di quegli anni. Il film si chiama Singles, ne abbiamo parlato qua in passato. E non solo fanno un cameo recitano nel film, ma i Soundgarden vengono ripresi mentre suonano Beast Ritual, canzone che viene ritenuta, che fa parte ovviamente della colonna sonora del film, e che viene ritenuta in qualche modo il manifesto musicale dell'intero movimento grunge. Nella colonna sonora, a dire del peso del gruppo, l'unico cantante di quel movimento lì, del movimento nascente del grunge, l'unico cantante che fa un pezzo come solista è Chris Cornell, che canta e suona Seasons. Vabbè, la band poi, adesso non raccontiamo tutto, si scioglie nel 97, e si scioglie dopo aver pubblicato 5 EP, 5 album, e aver venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, soprattutto grazie al successo di brani diventati vocali. Jesus Christ Posa, la stiamo sentendo sotto mentre parlo, Spoonman, Black Hole Sun. in qualche modo possiamo dire, dopo anche la morte di Kurt Cobain, che nel 97, quando i Soundgarden si sciolgono, cioè lo scioglimento dei Soundgarden si coincide con la fine stessa del grunge. Il gruppo tornerà insieme nel 2010, resterà insieme fino al 17 maggio 2017, una data molto amara, la data del loro ultimo concerto, ma non è questo l'amarezza. L'amarezza viene data dal fatto che la mattina dopo, il 18, le agenzie battono una notizia completamente inaspettata, cioè della scomparsa di Chris Cornell, trovato morto nella stanza suicida, nella sua stanza d'albergo di Detroit, dove appunto aveva suonato con i suoi Soundgarden il loro ultimo concerto. Faccio un piccolo passo indietro per introdurre il pezzo che abbiamo scelto, e proprio torniamo all'inizio della loro storia. Loro cominciano a suonare in giro per Seattle, in tanti locali, si fanno notare, basterebbe la voce di Cornell oltre la chitarra di Tahill, che forse tra i più sottovalutati chitarristi degli ultimi anni. Un DJ di una radio che si chiama KCMU, un certo Jonathan Pollman, li nota, si innamora di loro, e una radio specializzata in alternative rock che poi avrebbe diffuso il grunge quantomeno nello stato di Washington. Ok, lui rimase impressionato quel tanto dal quartetto che si propose, andò da loro e gli disse: io voglio finanziare il vostro disco, siete troppo forti, vi finanzio io. Tahill avvisa subito un suo grande amico Bruce Pavitt che, grazie ai $20,000 che Pollman mette sul piatto, fa molto di più che produrre un disco di Soundgarden. Fonda un'etichetta che farà storia, l'etichetta si chiama Sub Pop, e la storia, e ho finito, è che il primo singolo di Soundgarden è anche il primo singolo della Sub Pop. La canzone si chiama Hunted Down, e questa è la canzone che abbiamo scelto e che ci sarebbe piaciuto, non è possibile, Cornell non è tra noi, che avrebbero, ci sarebbe piaciuto sentirla dal vivo in qualche cerimonia. Nominati ma non introdotti in questa Rock and Roll Hall of Fame del 2020, i Soundgarden comunque sicuramente avranno modo nelle future edizioni. Usciamo un attimo adesso dalla categoria dei degli interpreti, dei performer. Però prima di introdurre la categoria che stiamo per introdurre, un'altra piccola spiegazione, forse l'abbiamo accennato, però facciamo un po' più di chiarezza. Allora, le categorie principali sono performer, cioè gli artisti, cantanti, le band, i non performer, in cui produttori, ingegneri del suono e proprietari di etichette musicali, che c'è, insomma, i non musicisti, che gente però hanno che, a che fare che in maniera fare diretta con il mondo della produzione musicale. Poi ci sono i adesso non mi ricordo come è l'espressione in inglese, però diciamo le influenze, le grandi influenze, qui sono entrati Billie Holiday, Louis Armstrong, i maestri, sì. E artisti Johnson, che non fanno parte del non rock and roll, fondamentalmente artisti blues e jazz. L'ultimo entrato però per esempio è Hank Williams, quindi insomma blues, jazz, country, qualcosa che non è rock and roll, ma che ha dato in qualche modo influenzato le radici, bravissimo. Poi ci sono i sidemen, cioè i session men, i musicisti, quelli che non fanno parte di nessuna band e che però magari, tipo i bassisti che abbiamo passato qualche settimana fa, gente che magari non ha fatto mai parte di una band ma ha suonato in 500 dischi stratosferici e hanno trovato modo di dargli un riconoscimento. Poi negli anni, anche per esigenze di marketing, per cambiare formula, per avere un po' più di appeal, per premiare qualche amico degli amici, hanno aggiunto delle categorie. Però tra le categorie hanno aggiunto quelle meno importanti, non ci interessa, c'è una categoria aggiunta nel 2018, in quest'anno non l'hanno coperta, però l'hanno fatto soltanto nel 2018 e nel 2019, che è molto interessante. La categoria si chiama singoli, singles, e dentro questa categoria vanno quelle canzoni che hanno fatto un'epoca, perché sì, insomma, adesso capiremo perché, però devono essere canzoni di una band o di un artista che non è stato introdotto nella Hall of Fame. Quindi mi chiedo, il pezzo X, i Kingsmen questi, sì, quindi loro non potranno mai entrare, ormai sono bruciati, no, secondo me, e secondo se entrano me gli tolgono la canzone? Chissà. Strano, chissà, andrebbe chiesto. Io comunque ne ho scelto uno che dubito che lui entrerà mai nella Rock and Roll Hall of Fame, però io così, diciamo, immagino che invece questa sua canzone, Hully Gully, prima o poi ci entrerà. È un brano composto nel 1964, lui si chiama Samudio Domingo, in arte Sam the Shame, e i suoi Pharaons, i faraoni che salivano sul palco con turbanti e abiti egizi. Noi intanto sotto ci ascoltiamo due delle canzoni che fanno parte, sì, infatti già non ho detto i nomi delle canzoni di questa categoria, vabbè. Una dei Kingsmen, e questa è Rumble di Linker Way. Dicevo, questi Pharaons che avevano una quantità enorme di abiti di scena più gli strumenti, quindi quando si trasferivano per fare i concerti da una città all'altra non avevano ancora i soldi per comprarsi un furgone, quindi lo facevano con un carro funebre. Pensa che quando arrivavano sul posto, che gioia. La fortuna comunque di Hully Gully, il brano che abbiamo scelto, è stato il conto alla rovescia con cui inizia la canzone. La famiglia di Sam era di origine messicana, lui è nato in Texas, per giocare in studio, per dare il 4 e far partire i musicisti lo fa alla messicana, pensando però che in fase di messaggio poi sarebbe stato tolto. Invece niente, perché l'occhio lungo, forse l'orecchio lungo del produttore, decide di lasciare questa introduzione, rendendo un semplicissimo brano con una anonima e banale struttura blues in 12 battute a vendere più di 1 milione di copie. Perché è importante Hully Gully? L'importanza di Hully Gully è quella che fu il primo singolo a superare il 1 milione di copie negli Stati Uniti durante la British Invasion. La canzone poi ha continuato a vendere per qualche anno, è arrivata a oltre 3,5 milioni di dischi venduti e più di 40 film l'hanno utilizzata nella colonna sonora, e la ricorderete molto probabilmente in una scena di Full Metal Jackets. Noi ce l'ascoltiamo, loro sono Sam the Shame e i suoi Pharaons, Hully Gully. Uno, due, one, two, tre, quattro. About a thing she saw, Let that be your summer. Come and learn to dance. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Watch it now, watch it, watch it, watch it. You got it. Oh, è sparito comunque Sound & Shame da qualunque testata giornalistica, niente, c'era una pagina Facebook, è sparito pure da là, non si sa che fine ha fatto. Chi ha notizie? 0649 2750. Vai. Allora, prima di annunciare l'altro singolo che secondo noi meriterebbe di entrare e di corsa nella Rock Hall of Fame, facciamo diciamo due parole sul gruppo che quel singolo ha mandato le stampe. Il gruppo si chiama The Sonics, una delle band più selvagge nella storia del rock and roll, delle più influenti, i padri del garage rock, e che a mio avviso è davvero incredibile che non siano stati ammessi nella, ancora quantomeno nella Hall of Fame. I Sonics incarnano alla perfezione quella definizione a volte un po' antipatica, che però in questo caso è quella più esatta possibile, cioè band seminale. Cioè, loro sembrano formarsi agli inizi degli anni 60 proprio con l'intento di uscire fuori dai binari della tradizione per inventarsi qualcosa di completamente nuovo a loro insaputa, preparando poi la strada, aprendo la via, diciamo così, a future legioni di adepti che raccoglieranno poi i frutti proibiti che i cinque di Tacoma hanno piantato. Tacoma è una città non troppo lontana da Seattle, nello stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Questo lo dico perché prima parlavamo di Soundgarden, i Sonics in tutto il movimento grunge era una band di riferimento, cioè più o meno tutti quelle band avevano nel repertorio un paio di pezzi dei Sonics, quantomeno inizio carriera, quando dovevano riempire le loro scalette. Qualcuno, riferendosi soprattutto alle urla del cantante Gary Rosley oppure al sax spacca timpani davvero di Rob Lind, ne parla come parlerà di loro come protopunk qualche anno dopo la loro uscita, dopo la metà degli anni 60, cioè 15 anni dopo, a punk esploso, diciamo così. Ed è difficile dargli torto, perché in effetti i germi principali sono tutti lì: l'atteggiamento anticonformista, anche l'abbigliamento anticonformista per i tempi, i testi certamente poco ortodossi, il disinteresse più totale per la resa sonora. Quando ancora non si parlava di lo-fi, loro nei fatti lo erano lo-fi, non erano proprio interessati a un suono pulito. Io dicevano lo-fi? Sì, io dicevo sempre, tant'è che per quello loro hanno fatto quei due album. Immagino. E poi per un po' di anni sono sciolti, perché erano proprio stanchi delle battute dell'Alessandro di turno. Assolutamente, che dire, vai. Here Are The Sonics, cioè il loro debutto del 1965, il loro primo album, è un crocevia imprescindibile per la storia del rock. Sono 12 canzoni, la durata dell'album è poco meno di 30 minuti, 28 se non ricordo male. Nessuna canzone supera, e sembra un po' i Ramones, nessuna canzone supera la soglia dei 3 minuti. L'album è registrato in presa diretta, sfruttando solo un piccolo mixer a due piste. L'album alterna pezzi loro, pochi ma di importanza capitale, e cover, soprattutto cover di pezzi rock and roll, in qualche caso anche di pezzi soul. A entrare dritto nella storia, arriviamo al punto, la canzone che noi introdurremo nella Hall of Fame è Psycho. Psycho è proprio il manifesto del garage rock, quel suo incastro perfetto e selvaggio, appunto, di chitarra e sax. La canzone è un inno alla gioventù, e lo psycho, diciamo, è riferito agli amori che fanno perdere la testa in età, appunto, adolescenziale, che si dice, non si dice. Comunque, Sonics, Psycho. Wow, baby, you're driving me crazy. e con i Sonics, non mi guarda così, e la loro Psycho. Noi chiudiamo questa parentesi dedicata ai grandi brani, ai grandi singoli che fanno parte di questa categoria della Hall of Fame, e cambiamo decisamente atmosfere per tornare alla categoria interpreti, interpreti che non hanno, insomma, che ancora non performer. Sono performer, scusami, performer che ancora non sono entrati. E peccato, perché sarebbe stato bello ricordare quest'anno Ian Curtis, vederlo inserito nella Rock and Roll Hall of Fame a 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 18 maggio 1980, e se lo meriterebbero. A parte questo, comunque, i Joy Division, il gruppo che ha ridefinito o definito proprio il post-punk, chissà se hanno pagato il fatto di non essere riusciti ad andare in tournée per gli Stati Uniti. Si sono, in pratica, la loro carriera è finita il giorno prima, il giorno della morte, appunto, del suicidio di Curtis. I Joy Division arrivano dopo la rabbia punk, sono la rassegnazione di quella generazione, quella di fine anni 70, schiacciata tra lavoro in fabbrica e disoccupazione. No Love Lost cantavano, non c'è neanche l'amore da perdere. Con Ian Curtis c'è anche Bernard Sumner alla chitarra, c'è Peter Hook al basso e Terry Manson alla batteria. E loro hanno un sound assolutamente freddo. Martin Annett, il produttore, li faceva registrare nello studio con l'aria condizionata più fredda che poteva. Un album soltanto, pubblicato in attività a Non Pleasure 1979. Poi, dopo la morte di Curtis, la pubblicazione postuma del loro unico successo commerciale, Love Will Tear Us Apart, scolpito anche sulla tomba. E poi a luglio del 1980 il secondo album, che avevano fortunatamente terminato di registrare. Poi Peter Hook, Sumner e Manson formeranno un altro grande gruppo che risponde al nome di New Order e continueranno a incidere album con la stessa etichetta, la Factory Records, che li ha resi grandi anche con i Joy Division. Ma questa è un'altra storia, e noi ci ascoltiamo intanto Disorder. I got the Joy Division Disorder a Radio Onda Rossa in questa puntata dedicata ai non indotti, alla Rock and Roll Hall of Fame. Io tra l'altro ne approfitto, se non l'avete visto, io purtroppo con mia grandissima colpa l'ho fatto veramente da pochissimo tempo, vi consiglio il film su Ian Curtis che si chiama Control. Però spiega meglio che intendi per pochissimo tempo. Cioè l'ho fatto da pochissimo tempo, cioè? L'ho visto ieri sera, ieri notte. Ammazza, comunque guarda che vabbè, dai. Boh, vabbè. Dai, è bello mettere una comunità questa, no? Condividiamo anche questi aspetti. Ieri sera che pare col che tuo so block notice davanti al video, appunto, è una bella immagine, sì. No? Una bella immagine. Comunque è uno scandalo che Joy Division non siano davvero dentro, è uno scandalo anche quello che sto per raccontare. Partiamo dalla metà degli anni Ottanta, qualcuno avrà ascoltato, avrà già capito, visto la base, la musica, visto che ho il tenore sotto la mia pezzo. Voce, quasi mi dispiace dover parlare. A metà degli anni Ottanta, mentre contestualizzo un po', i Queen incidevano a Kind of Blue, Bruce Springsteen aveva imposto il suo dominio in tutto il mondo, in tutta la scena musicale mondiale, grazie a Born in the USA. Ecco, in quell'anno, nel 1985, quattro personaggi abbastanza inquieti, colti, certamente dei musicisti colti newyorkesi, pubblicarono un album che per attitudine, per suono, per estetica, proprio sembrava arrivare proprio letteralmente da un altro pianeta. I quattro erano, vanno menzionati, Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo e Bob Burt. Bob Burt alla batteria, che verrà sostituito subito dopo dal grandissimo Steve Shealy. L'album era Bad Moon Rising, il nome della band l'avete capito, e Sonic Youth. Le tracce, per dire dell'impatto che ebbe quell'album, erano un intreccio di distorsione e di rumore, veniva chiamato noise, senza nessuna soluzione di continuità, cioè non c'erano i famosi 4 secondi tra una traccia e l'altra. E i pochissimi momenti melodici, Ale, passami questa metafora un po' poetica, erano come la luce di una candela che si perde lentamente nella foschia. I pochi momenti melodici, questo è per dire che la candela mi serviva un assist, la stessa candela che compare sulla copertina del loro capolavoro, cioè Daydream Nation, il loro album del 1988. E sul che Monopoli basterebbe anche sul Monopoli, stessa candela del Monopoli, perché Monopoli c'è la candela? Non lo sapevi? Ispirata proprio a uno dei segnini là, la candela ispirata proprio a... Io sono rimasto a fiaschetto di vino, ah, che volevo sempre, sono però vabbè, no, vai avanti, sulla dai. Candela un po' mi perdo. Comunque Daydream Nation, il loro capolavoro del 1988, e basterebbe solo questo disco per farlo, per dargli un posto d'onore nella serie del rock e per farli entrare nella Hall of Fame di Cleveland. Quindi ribadisco che è incredibile che loro non siano stati ancora ammessi, perché soprattutto per motivo anche per la loro importanza, per la loro influenza musicale, cioè non c'era nulla che assomigliasse ai Sonic Youth prima dei Sonic Youth, e dopo nulla resterà uguale, quantomeno nulla resterà uguale nel mondo della musica indipendente americana, che insomma è un bel, insomma, è qualcosa un bel di rilevante. C'è un prima e un dopo Sonic Youth. Dopo essere diventati gli alfieri del rock indipendente americano, i Sonic Youth seguono la scia di altri grandi gruppi come i Rem, come gli Husker Du, abbiamo detto prima dei Soundgarden, i Soundgarden lo faranno dopo, e firmano insomma per una major, ponendo così fine alla prima fase della loro carriera. Erano così amati, però erano così importanti, che questa scelta fu uno scandalo in certi ambienti negli Stati Uniti. Numerosi critiche, fans arrabbiati, persone che dicevano sono morti, artisticamente sono morti, significa che non hanno più nulla da dire. Il grande Steve Albini gli darà e gli continua a dare pubblicamente dei venduti, dei corrotti, cioè sono andati a sporcare con le major. Adesso noi non entriamo in questo ambito, cioè non, se hanno fatto bene o hanno fatto male. La cosa che possiamo dire è che non è vero che dal punto di vista artistico siano morti, anzi hanno continuato a fare grandi dischi, forse non hanno fatto più nessun disco del livello di Daydream Nation, ma hanno fatto grandissimi dischi. Comunque la casa discografica per cui firmano è la Geffen Records, la stessa etichetta che poco dopo mise sotto contratto Nirvana, che furono proprio raccomandati da Sonic Youth, che a loro volta erano stati raccomandati da un certo Neil Young. Neil Young accedeva ai piani alti della Geffen Records, ha detto guarda, io c'avevo questo gruppo come spalla, abbi fede, sono bravini, io gli farei buttare un orecchio di loro, gli darei uno sguardo, capite che volete. Secondo che volete me fare. Quando lo licenzieranno gli diranno ma se neanche un gruppo che è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame sai consigliare. Vabbè, è possibile. Comunque l'album, il primo album per la major è Goo, Guvesce nel 1990, la copertina l'avrete, anche se non conoscete il disco, la copertina la conoscete perché l'avrete vista in mille magliette in giro, insomma, per Roma e per il mondo. La copertina è la rielaborazione grafica della foto di due ragazzi che erano stati chiamati a testimoniare in un processo a carico di una coppia di serial killers in Inghilterra negli anni 60. Fu un caso che in quegli anni fece molto, molto scandalo in Inghilterra, c'era un'attenzione morbosa e questo non sorprende della stampa su questo, appunto, su questa coppia di serial killers. Sulla destra della copertina c'è una scritta che recita in inglese, io in italiano suona così: ho rubato il ragazzo a mia sorella, era tutto un turbine di calore e un lampo, in una settimana abbiamo ucciso i miei genitori e siamo partiti. Questa frase, che appunto è in copertina, è una dichiarazione estrapolata proprio dagli atti del processo di questa coppia. Era uno dei due serial killer che disse questa frase durante il processo. L'album, abbiamo detto, forse non è un capolavoro come gli album che l'hanno preceduto, ma certamente metabolizza e rielabora in una chiave più accessibile a tanti, se non a tutti, le sonorità marchio di fabbrica del gruppo. In breve scaletta abbiamo scelto di farvi ascoltare Cool Thing. In questa canzone partecipa Chuck D dei Public Enemy, ed è curiosa la storia per cui partecipa, perché lui ha visto Kim Gordon venire quasi alle mani con un altro rapper, LL Cool J, perché lei si era innervosita durante un'intervista per suo atteggiamento proprio misogino, e quindi in sostanza Kim Gordon stava per partirgli proprio. Lui è rimasto molto colpito, tanto è rimasto colpito che nella piccola parte che canta nella canzone cambia i versi e le parole di una sua canzone da Fear of Black Planet o in Fear of Female Planet. Loro sono i Sonic Cute, questa è Cool Thing. E noi in colpevolissimo ritardo, dopo i Sonic Youth, andiamo a cambiare categoria, perché entriamo in quella dei produttori, quella comunque dei personaggi che ruotano. Non performer. Esatto, dei non performer. E quindi anche qui due nomi, uno a testa tra quelli non nominati, come balli bene. Ed è veramente incredibile come ancora non si è entrata nei non performer una figura importantissima come quella di Rick Rubin, newyorkese, classe 63, insieme a Russell Simmons fonda la Def Jam, la storica etichetta discografica specializzata nell'hip hop, nel 1983. Nell'86 la svolta e la grande intuizione di Rubin: creare un nuovo genere musicale che mettesse insieme il rock e l'hip hop. Il risultato è quello che sentite qui in sottofondo, Walk This Way, un pezzo degli Aerosmith risuonato con i Run DMC, che ha portato l'hip hop ad un pubblico di massa. Lo stesso anno, Licensed to Kill, il disco di esordio dei Beastie Boys. Non ti basta? Vabbè, poi avanti, Slayer, Red Hot Chili Peppers con Blood Sugar Sex Magik e altri album, Metallica, CDC, Cult, System of a Down, Eminem, insomma un elenco sterminato di artisti. Non ti basta ancora, Fabio? Rick Rubin nel 1994 chiama Johnny Cash al telefono. Pronto, signor Cash? Salve, lei non mi conosce, sono Rick Rubin e la chiamo perché sono convinto che lei non abbia ancora pubblicato il suo album migliore e arriveranno gli American Recording. Non vi basta ancora? 10 Grammy Awards. E poi, se proprio devo fare una chiusa, Jovanotti. Anche Jovanotti, pensi? Anche Jovanotti. Rubin ha comprato lo studio di Malibu. Ha comprato lo studio di Malibu dove Bob Dylan ha registrato tanti album. E Jovanotti è andato lì a parlare con Rick Rubin. Pensa, nello stesso luogo dove è stato seduto Bob Dylan. Ma andiamo avanti. Comunque, Rubin è, oltre a un produttore, anche un consigliere, un amico per gli artisti. Qualcuno lo definisce il più influente produttore degli ultimi 30 anni. Noi ci ascoltiamo una delle sue più importanti produzioni, Fight for Your Right, dal debutto. Loro sono Beastie Boys. Yeah! Still You Gotta Fight For Your Right, Beastie Boys. Certo, Rick Rubin è stato sicuramente è influentissimo. Adesso sul fatto che sia stato il più influente degli ultimi 30 anni, vediamo. Comunque restiamo nella categoria dei non performer e quindi introduciamo un altro, più che produttore, un altro ingegnere. Questo è un ingegnere del suono più che un produttore. C'è un'intera generazione di cui faccio parte che è cresciuta proprio ascoltando una manciata di dischi che sono Nilla Pizzi. Destinati, certo, a parte Nilla, destinati a lasciare il segno, ad accumularli un sound duro, violento, urgente, che esprime proprio l'urgenza. Un sound che nel tempo, in poco tempo poi, è diventato un marchio di fabbrica, ecco, quel sigillo espressivo ed estetico è la produzione di Steve Albini. Per questo che, insomma, adesso non so chi è il più influente, è difficile pesare le influenze, ma insomma, se non è lui, poco ci manca. Classe 62, origini torinesi, Steve Albini nasce in California, cresce nel Montana, studia giornalismo, poi si trasferisce a Chicago, dove nei primi anni 80 è protagonista della scena hardcore e poco dopo in quella post-hardcore. In questo caso la cui nascita, al cui sviluppo ha dato un contributo fondamentale come musicista. Milita in diverse formazioni musicali fin dall'adolescenza, fonda band di culto come i Big Black, passati diverse volte qui, gli Shellac, i grandissimi Shellac. Però qui ce ne stiamo occupando sotto un'altra veste. E infatti, in qualità di produttore, anzi, scusate un'altra volta, mi correggo, ingegnere del suono, come vuole essere poi chiamato lui, che lascia un solco indelebile nella storia della musica indipendente. In utero di Nirvana, lo stiamo sentendo qui sotto, Red of Me dei PJ Harvey, Pod dei Breeders, Got dei Jesus Lizard, Time of Grace dei Neurosis, Viva Las Blues dei Palace, Ocean Songs dei Dirty Three. E questi sono solo alcuni dei titoli straordinari che portano la firma di Steve Albini. Albini non ha ricevuto né riceve alcune royalty dalle migliaia di album che ha prodotto, perché a lui ha dichiarato che il suo lavoro consiste nel decidere musica secondo i desideri delle band, e che pagare un produttore come se avesse contribuito dal punto di vista artistico a un disco, secondo lui non è assolutamente etico. Dice: non voglio e non vorrò mai dei diritti sui dischi che registro, credo che pagare con i diritti d'autore chi si occupa della registrazione di un disco sia indifendibile. Il gruppo scrive le canzoni e le suona, i fan comprano gli album, ed è la band a essere responsabile di un ottimo disco o di un disco orribile. I diritti d'autore sono dei gruppi. Io voglio essere pagato come un idraulico, faccio il mio lavoro e vengo pagato per quello che vale, e vale parecchio, questo lo aggiungiamo noi. Il disco chiave della carriera di Albini è il debutto dei Pixies, non l'ho nominato prima apposta, Sulfur Rosa, anche questo è un album del 1988. Subito è il disco chiave della sua carriera, non tanto per quello che racconterà poi lui, ma perché dopo aver dato le stampe a questo album, lui si troverà letteralmente la fila fuori dallo studio di artisti che vogliono registrare con lui. E Sulfur Rosa è un album epocale, è la fonte di ispirazione principale di Nevermind, e torniamo ancora più Nirvana, ed è una fonte di ispirazione principale di Nevermind, non lo dico io, lo diceva Kurt Cobain nelle interviste. La canzone preferita di Albini è Gigantic, che poi è l'unico singolo estratto dall'album. Ama raccontare le interviste che la voce di Kim Deal, splendida, ed è splendida anche la linea di basso, è stata registrata in un bagno per dargli ancora un po' più di non so cosa. Gigantic, gigantic, I'm big in love. Dopo i Pixies, bravini, dopo i Pixies ci prepariamo ad entrare nell'ultima parte della nostra trasmissione, l'ultimo pezzo a testa. Torniamo nella categoria dei performer e chissà, forse alla Rock and Roll Hall of Fame hanno dei problemi con i gruppi di Manchester, perché neanche gli Smiths ne fanno parte. Guarda, hanno problemi soprattutto con i non americani e con chi non canta in lingua inglese, salvo rarissime eccezioni. Però insomma, gli Smiths non sono all'interno di questa, di questo premio, no? Insomma, se di premio possiamo parlare. Smith, che sono l'incontro tra il paroliere Stephen Patrick Morris, è un personaggio di cui insomma faccio veramente fatica a parlarne oggi, e Johnny Marr. Beh, già da qualche anno ormai. Già da qualche anno, insomma, però io ne sto a parlare oggi, per cui ne faccio fatica oggi. Comunque, A parte gli scherzi, già da qualche anno ha perso lucidità, esattamente. Eclettico, straordinario, influente chitarrista, parlo appunto di Johnny Marr. La ricetta della musica degli Smith è molto semplice, ma allo stesso tempo tremendamente efficace. Scelgono di chiamarsi Smith come il cognome più diffuso in Inghilterra, come a dire: parliamo proprio a te, ragazzo delle strade di Manchester o di qualunque altra città industriale, che non hai speranze, non hai sogni per il tuo futuro. Si vestono da antitivi, con il look abbastanza anonimo, i testi molto decadenti, però allo stesso tempo ironici, ispirati alla letteratura, Oscar Wilde in particolare, accompagnati dagli splendidi arpeggi della chitarra di Johnny Marr, cultore del rhythm and blues degli anni 60, e questo ci permette di, anzi gli permette di sfornare questi splendidi gioielli pop. Attivi tra l'82 e l'87, quattro album in studio e un live, rifiutano la Factory Records, l'etichetta dei Joy Division, e per andare a firmare con la Rock Trade Records, di cui saranno croce e delizia. Perché secondo noi gli Smiths dovrebbero entrare? Perché sono stati proprio i traghettatori tra il gothic, tra il post-punk e il pop inglese degli anni 90, favorendo poi la nascita di quel movimento che nel bene e nel male sarà il Britpop. Il gruppo ha decisamente caratterizzato il sound degli anni 80 e mi sembra che la fama e l'interesse da parte delle nuove generazioni non si sia assolutamente affievolita. Dal loro disco più acclamato, The Queen is Dead, noi ci andiamo ad ascoltare questa Big Mouth Strikes Again. Loro sono The Smiths. The Smiths, Big Mouth Strikes Again. Sono giorni che provo Big Mouth Strikes Again. Lo dici benissimo, sembra che l'hai detto sopra la panca la capra campa. Sì. Vai. Comunque siamo alla fine, andiamo veloci e siamo proprio all'ultima canzone, all'ultimo gruppo che vogliamo idealmente introdurre noi nella Hall of Fame, visto che qualche parruccone non ci ha ancora pensato. Che cosa hanno in comune Wilco, Teenage Fan Club, Io la tengo, i Rem, i Replacement? Il fatto, non mi fa battute Ale, ti prego, già dalla faccia ho capito che stavi tirando fuori qualche gioiello. Il fatto che senza i Big Star, non dico che non sarebbero esistiti, ma quantomeno avrebbero suonato diversamente, avrebbero suonato altro in altri modi. A questo elenco si potrebbero aggiungere tantissimi altri nomi. Per farvi un'idea di quanto Alex Chilton, Chris Bell, Jody Stephens e Andy Hammer, appunto i componenti dei Big Star, abbia influenzato generazioni e generazioni di musicisti e quanto siano ancora amati, potreste guardarvi il bellissimo documentario che si chiama Nothing Can Hurt Me. In questo documentario, tra le cose che mi hanno colpito, c'è Robin Hitchcock, l'ex Soft Boy, che loro grandissimo fan, che trova delle parole molto belle, molto azzeccate per spiegare la parabola sfortunatissima di questo gruppo straordinario. Ma l'hai visto ieri sera? Il film? No, l'ho visto tempo fa. Per me, è vero, per me i Big Star sono come una lettera spedita nel 1971 e arrivata nel 1985, come una cosa smarrita nella posta, davvero. Per motivare il loro ingresso nella Hall of Fame, anche qui inspiegabilmente ancora non pervenuto, avanzerebbe il loro primo album, l'unico tra l'altro che è stato registrato con la formazione al completo. Dal secondo album non c'era più Chris Bell, il terzo album di fatto e ultimo album sarà di fatto un album solo di Chilton, album straordinario, sia chiaro, ma i Big Star, loro quattro, stanno soltanto, per modo di dire, in un disco. Pochi altri album nella storia del rock hanno vissuto meglio quell'istante irripetibile in cui l'incoscienza, l'ottimismo, la sfrontatezza della gioventù ti danno la sensazione di poter fare qualsiasi cosa, di trovare ogni porta aperta, di poter aprire ogni porta, cioè quando basta avere proprio il coraggio di buttarsi nelle cose. I quattro ragazzi di Memphis, di coraggio in quel momento, appunto nel 1971, come ci ricordava Hitchcock in quella sua frase, appunto di coraggio in quegli anni, in quell'anno ne possedevano tantissimo, non avrebbero altrimenti scelto di chiamarsi Big Star e né di intitolare il loro album Number One Record. Nessuno fra chi l'ha ascoltato negli ultimi 50 anni, perché questi sono passati, l'ha mai interpretato nel senso di numero uno in classifica. La gran parte delle persone, tutti penso, lo legano a una canzone temporale, cioè il loro primo album. No, loro proprio intendevano: con questo album spacchiamo. Loro erano convinti che avrebbero fatto fuoco e fiamme, che sarebbero diventati i nuovi Beatles. E poi, per una serie di circostanze che non raccontiamo qui, non è stato così, ma la loro storia è davvero davvero sfortunata. E forse uno dei motivi del fascino che ancora oggi esercita è che quel disco soprattutto ancora esercita sta proprio nel contrasto tra ciò che poteva essere e ciò che invece non è stato. Il gioiello del disco è certamente 13, una canzone sui 13 anni scritta da chi 13 anni non li ha più, e che non è solo una canzone straordinaria, che poi hanno risuonato un'infinità di artisti, ne dico solo uno di nome Elio Smith, se non la conoscete la cover ascoltatevela. Ma dicevo, non è soltanto una canzone, ma è proprio un monito a non dimenticare chi eravamo, un monito a godere delle cose che rendono bella l'esistenza, la musica, quella che condividono i due ragazzi, l'amore, il piacere della condivisione, appunto. E Thirteen in buona sostanza racconta, è una storia d'amore tra due adolescenti, una storia d'amore che ci riporta nei banchi di scuola, che ci ricorda i primi appuntamenti, arpeggio di chitarra, cori, un testo semplicissimo ma molto diretto, sono l'ossatura della canzone. Una canzone magnifica che se ascoltate oggi per la prima volta risentitela subito dopo, perché non ne potrete veramente fare più a me. Chiudo la canzone, oltre a raccontare questo corteggiamento tra i due giovanissimi, è anche un omaggio alla passione che quantomeno chi racconta, chi canta, ha verso il rock. Nella frase rock and roll is here to stay, è qui per restare rock and roll, e nella citazione di Paint It Black degli Stones. 2 minuti e 34 di perfezione assoluta e anche di qualche groppo in gola. Noi vi salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo. Buona serata. Sono il Big Star, questa è il Thirteen. E ciao a tutti e a tutti. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Friday I can get tickets for the dance. Now take you ooh. Won't you tell your dad, get off my back. Tell him what we said about painted black. Rockin'